quest'anno si assiste a una sorta di omogeneizzazione, potremmo dire, nel senso che è meno radicale la divisione tra le aziende che si occupano della ricerca pura e quelle che invece si occupano, diciamo, di un prodotto destinato a un ceto medio più allargato. Ecco, dobbiamo dire che questa differenza appunto sta sfumando e che quindi cerchiamo anche in aziende, diciamo, di alto livello di fare delle presentazioni d'assieme, cioè di far capire come le cose possono vivere una con l'altra. E curiosamente c'è anche una sorta di rivalutazione del classico, quindi una tendenza a essere meno spinti, meno estremisti. Questo porta con sé una serie di conseguenze. La prima è ovviamente il fenomeno delle riedizioni. Il fenomeno delle riedizioni è classico di quei momenti in cui esiste, diciamo, un timore degli investimenti. Quindi, in qualche modo, se ci si ancora alla memoria, alla nostalgia, in fondo a una tradizione del passato, si è più sicuri di arrivare al bersaglio. È meno facile sbagliare. Ecco, e devo dire che nel mondo del mobile vediamo riedizioni di pezzi di Magistretti della fine degli anni 40, vediamo il ritorno di pezzi di Joe Colombo della metà degli anni 60. I materiali sono oggi materiali essenzialmente naturali. Poi vedremo il discorso della plastica, però c'è un grandissimo ritorno alla materia come valore in se stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta si disegnava un pezzo e poi in fondo al processo si pensava alla finitura per questo pezzo, ovvero alla scelta dell'essenza linea, ad esempio, o alla scelta del colore. Adesso queste operazioni non sono più considerate operazioni di finitura, sono veramente un concetto principale essenziale. E quindi, ad esempio, abbiamo visto moltissimo legno massello, abbiamo visto il ritorno di legni importanti rossi come cromie, quali il mogano e il palissandro, lavorati a tavole, sentendo il peso della materia, il valore di tatto della materia, qui è molto presente. Lo stesso discorso glielo potrei fare anche rispetto alla pelle e al cuoio. Magari sono notazioni tecniche, ma negli ultimi anni la pelle, anche la pelle naturale, veniva stampata per evitare le differenze. La pelle è un materiale naturale, quindi ovviamente porta dei segni che venivano fino a oggi, diciamo fino a ieri, nascosti. Mentre in questo salone devo dire che c'è proprio la valorizzazione della pelle in se stessa, quindi se l'animale aveva una cicatrice o un segno, questo viene mostrato.